Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a questo nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi vi parliamo di una opportunità di investimento che per alcuni, lo ricorderete perché è stata data questa definizione più volte con le precedenti operazioni, ha anche un significato che potremmo definire patriottico. Ricorderete all'incirca un anno fa l'appello dell'imprenditore Giuliano Melani che invitava gli italiani a ricomprarsi il debito proprio in uno dei momenti più difficili della crisi finanziaria recente, nei momenti appunto degli spread stellari. Ricorderete poi l'idea del BTP Day e del Bot Day, giornate dedicate a sensibilizzare gli italiani alla sottoscrizione di titoli di Stato quando invece gli investitori mondiali se ne stavano allontanando. Sul fatto che queste iniziative siano servite davvero ad allentare la tensione finanziaria, lo sappiamo, c'è stato grande dibattito, sono sicuramente state delle importanti iniezioni di fiducia, operazioni non indifferenti anche per portata. Ci sono però anche molti scettici che hanno conservato dei dubbi a questo proposito, ma in ogni caso, dubbi o non dubbi, il Ministero dell'Economia va avanti con le sue aste che riscuotono l'accoglienza più che positiva dal mercato. Lo spread ha ripreso a scendere, questa mattina è addirittura sui livelli che non vedeva da oltre 6 mesi, e soprattutto questa settimana sta registrando un enorme consenso la terza emissione del BTP Italia, il prodotto pensato proprio per i piccoli risparmiatori, che è arrivato appunto in questi giorni alla sua terza operazione. Le due precedenti sono state in marzo e in giugno. L'esordio è stato lunedì con una raccolta record di sottoscrizioni, se consideriamo solo quello che è successo nella prima giornata, 2,5 miliardi totalizzati, e con questa cifra è stato superato addirittura il secondo collocamento di giugno, quando l'operazione aveva permesso appunto al Tesoro di ottenere risorse per 1,740 miliardi di euro in tutto. E a giudicare da quello che sta succedendo in questi primi giorni, l'operazione termina domani, potrebbe essere raggiunto o addirittura superato l'importo relativo invece alla prima operazione, quella che fu effettuata fra il 19 e il 22 marzo, quando il Tesoro raccolse 7,290 miliardi di euro. Questo particolare titolo di Stato, lo ricordiamo, poi avremo modo di farlo per tutta la trasmissione, è indicizzato all'inflazione italiana, ha una durata di 4 anni, riconosce cedole semestrali ed è pensato, come vi dicevo, soprattutto per le esigenze dei piccoli risparmiatori. A giudicare da quello che sta succedendo in questi giorni, sono proprio i piccoli tagli quelli che sono maggiormente sottoscritti. I titoli di Stato si possono sottoscrivere direttamente online, oltre che allo sportello della propria banca di fiducia, e appunto l'operazione termina domani. Oggi noi vi torniamo a raccontare le caratteristiche di questo prodotto, rispondendo naturalmente anche alle vostre domande, che ci potete rivolgere all'800 24 00 24. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, e l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. potete anche andare ad animare come sempre al dibattito sui social network. Siamo su salvadanaio-radio24 per quello che riguarda Facebook, l'indirizzo Twitter è @salvadanaio24. Ringrazio per aver di nuovo aderito alla nostra trasmissione, al nostro invito, la dottoressa Maria Cannata, direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia. Dottoressa, buongiorno e bentornata. Tra l'altro, so da un roadshow piuttosto impegnativo che l'ha portata in Asia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Beh, più che un roadshow, erano gli incontri che normalmente si accompagnano al meeting del Fondo Monetario di questa stagione. Quindi ha avuto modo anche di raccontare appunto agli investitori internazionali che ha incontrato presso queste sedi appunto come si sarebbe presentata questa nuova operazione appunto sul mercato, che a quanto pare sta riscuotendo grande consenso. Adesso avremo modo di parlarne. Con noi questa mattina ci saranno anche Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana, che è già con noi. Dottor Poletto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Tra l'altro, Borsa Italiana presentissima a Salva Danaio in questi giorni, perché scorsa settimana, sempre con Pietro Poletto, abbiamo parlato del 10° anniversario degli ETF. Ieri, sempre con Borsa Italiana, 10° anniversario del TOL, il Trading Online Expo che parte domani, e oggi BTP Italia. Quindi non vi mancano certamente gli impegni in Borsa, dottor Poletto. Più tardi ci collegheremo con Gianni Lupotto, un consulente finanziario, che invece ci spiegherà questo beneficio dei piccoli risparmiatori che magari non hanno ben compreso la dinamica logica dell'investimento in un prodotto di questo tipo, appunto, come fare anche un calcolo di convenienza finanziaria, come sono andate anche dal punto di vista dei rendimenti le due emissioni precedenti e come fare anche raccogliere le differenze con questa terza emissione. Allora, dottoressa Cannata, io voglio subito cominciare con lei oggi. Molti motivi per darle un molteplice benvenuto, no? Lo spread che sicuramente ci dà più motivi di serenità rispetto ad un anno fa, ma anche solo a qualche mese fa. Lei non si è mai sottratta al confronto con i giornalisti, sicuramente magari in questi giorni lo fa un po' più volentieri. Allora, mi pare che in questo momento il clima sia più sereno, merito anche della Spagna, a cui oggi Moody's ha detto appunto non diamo questa nuova batosta, riducendo il rating, agenzie di rating complessivamente un po' più serene anche nei nostri confronti, quantomeno meno interventiste rispetto al passato. Siamo più tranquilli di qualche mese fa, dottoressa Cannata? Sicuramente, siamo sicuramente più tranquilli perché diciamo la comunicazione della BCE di inizio settembre ha rassicurato moltissimo gli investitori, anche internazionali, e quindi noi da inizio settembre, anzi qualche segnale si era già visto anche un po' prima, stiamo vedendo tornare gli investitori anche stranieri sui nostri titoli ordinari. Poi il BTP Italia è una cosa invece più domestica, proprio pensata per i risparmiatori domestici, e diciamo completa un quadro estremamente positivo in questo momento. Vi aspettavate questo boom di sottoscrizioni per questa terza operazione, onestamente? Francamente no, cioè eravamo abbastanza fiduciosi che sarebbe andata meglio di quella di giugno, perché abbiamo curato alcuni dettagli che probabilmente a giugno hanno prodotto un risultato un po' meno brillante, però non mi aspettavo un boom di questo genere. Sono veramente molto contenta, perché fa anche pensare che un pochino di fiducia stia ritornando anche in Italia, non solo quella maggiore fiducia che ho constatato a Tokyo presso gli investitori istituzionali, il sistema finanziario, ma anche forse nel nostro paese. Senta, adesso la voglio un po' provocare, perché per la verità questa dichiarazione è stata anche piuttosto pittoresca, quella che ha rilasciato nelle ultime ore il ministro dell'ambiente Corrado Clini, che ha detto: l'incremento dell'IVA, dalla quale si sta tanto discutendo e che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno, è una misura necessaria per garantire l'affidabilità dell'Italia sui mercati internazionali. È meglio un punto in più di IVA che 20, 30, 40 punti in più di spread. Dottoressa Cannata, che ne pensa? È d'accordo? Beh, io non entro in questi dettagli, però sicuramente trovo curioso che i giornali si sorprendano, la stampa dia molto rilievo a un aumento dell'1% di un'imposta che doveva essere del 2% da settembre di quest'anno, è stata rinviata a luglio dell'anno prossimo, adesso è stata dimezzata la sua proporzione e si invece tratta come se fosse qualche cosa di assolutamente nuovo e non previsto che salta fuori adesso e viene introdotta come un carico aggiuntivo. In realtà è un sollievo di pressione fiscale rispetto a quello che era stato calcolato fosse necessario per mantenere in sicurezza i conti pubblici. Lo trovo un pochino strano. E sicuramente il ridurre lo spread è più importante che avere un pochino di rialzo sui prezzi dovuto all'aumento dell'IVA, anche perché non dimentichiamo che lo spread dei nostri titoli vuol dire condizioni di svantaggio per il credito all'economia, per tutta una serie di correlazioni che oramai sono abbastanza ben note, e quindi qualche cosa che frena la ripresa in maniera drammatica. Ecco, lo spread a 322 punti base, il livello a cui lo abbiamo appunto rivisto questa mattina, livelli che non si vedevano da 6 mesi, anche se poi ricordiamo che in occasione della prima emissione del BTP Italia il differenziale fra Italia e Germania sul decennale era arrivato anche a 280 punti base. Fino a quanto possiamo spingerci ancora verso il basso? So che questa è una domanda che lei si sente fare ricorrentemente, è anche molto difficile fare previsioni di questo tipo perché poi magari arrivano sempre delle sorprese e notizie che sul mercato fanno andare in realtà il differenziale, così come i mercati azionari, in direzioni totalmente opposte, ma abbiamo ancora delle prospettive di discesa interessanti, dottoressa Cannata, a giudicare anche da queste tendenze degli ultimi giorni, le mosse di Madrid, gli aiuti della BCE? Sicuramente il quadro è molto più positivo e le prospettive di ulteriore miglioramento ci sono. Naturalmente questo non ci consente di darle per scontate, perché, come ha ricordato lei, in questi ultimi anni abbiamo vissuto più volte momenti di sorprese negative che hanno un po' vanificato un processo di miglioramento che di tanto in tanto si affacciava. Quindi per adesso beneficiamo e gioiamo di questo trend positivo e teniamoci calmi, non facciamoci troppe illusioni. Comunque i margini di miglioramento senz'altro ci sono. Se non ci sono sorprese negative, il trend continuerà. Allora, a ieri richieste per il BTP Italia che superavano i 5 miliardi di euro. Faremo un bilancio stasera per quello che riguarda la terza giornata di sottoscrizione. Abbiamo ancora domani. Ammettendo che nelle migliori delle ipotesi il trend continuasse in questa maniera, addirittura arriveremo ad oltre 10 miliardi di sottoscrizioni. Non lo sappiamo se potrà essere così brillante il bilancio, ma in ogni caso appunto la tendenza è stata decisamente oltre ogni più rosea aspettativa. Lo ha riconosciuto la dottoressa Cannata anche poco fa. Detto questo, alla luce anche di questo successo, di questa terza emissione, avete già ipotizzato di presentarvi di nuovo entro la fine dell'anno sul mercato con una quarta iniziativa analoga, dottoressa Cannato, oppure magari aspetterete ancora qualche altro mese, l'anno prossimo? No, sicuramente questa è l'ultima emissione dell'anno. Le emissioni di questo tipo, che sono rivolte al retail, non possono essere eccessivamente frequenti, perché non si tratta di investitori istituzionali, bisogna dare il tempo alle persone di avere della liquidità disponibile e quindi un'eccessiva frequenza non andrebbe bene, insomma. Quindi l'anno prossimo senz'altro ritorneremo, vedremo se c'è qualche aggiustamento da fare sulle caratteristiche del titolo, ma questa è l'ultima di quest'anno. Le banche italiane sono interessate a questo prodotto? Avete delle evidenze anche a questo proposito? Sono presenti su questo segmento? Le banche italiane sono sicuramente presenti, soprattutto però come veicolo degli ordini della clientela. Immagino che un pochino potranno essere anche interessate per i loro portafogli, sono interessati anche investitori istituzionali che contribuiscono al successo dell'operazione. Ecco, lei prima ci diceva, poi la lascio dottoressa Cannata perché so che ha molti impegni, se poi vuol continuare a rimanere con noi fino al termine della trasmissione naturalmente saremo molto, molto felici appunto di questo. Ci ha raccontato prima, questa pure era una tendenza che stavamo cogliendo con grande soddisfazione di nuovo da qualche mese a questa parte, un ritorno degli investitori stranieri appunto all'acquisto del nostro debito. Esiste una come dire, composizione geografica in questi termini? Per esempio, gli statunitensi hanno ripreso ad acquistare il debito italiano in maniera significativa, visto che erano stati i primi a scappare un anno fa, quando avevamo avuto la prima crisi dello spread nell'estate dello scorso anno. Sicuramente sì, stiamo vedendo un ritorno non di dimensioni particolarmente rilevanti, ma comunque significativo anche in termini di qualità di investitore, e anche da parte degli Stati Uniti. Non è ancora qualcosa di dimensioni rilevanti, però senz'altro è significativo, perché sono fondi buoni, real money di qualità, che stanno tornando ad investire in BTP. Pietro Poletto, non mi sono dimenticata di lei naturalmente, e adesso vorrei un po' di nuovo ribadire, se lei ci aiuterà a farlo, ai nostri ascoltatori quali sono le caratteristiche del BTP Italia, se ci vuole raccontare anche un po' il fermento nelle piattaforme appunto della Borsa Italiana a proposito delle operazioni appunto intorno a questo titolo. Detto questo, al momento magari le vediamo semplicemente allo sportello, perché in questo momento appunto i piccoli risparmiatori stanno facendo le loro sottoscrizioni. Poi sul mercato secondario vedremo le operazioni solamente in giornate successive a partire dalla prossima settimana, ma appunto ci ricorda che tipo di taglio può essere sottoscritto, ecco, quali sono appunto le caratteristiche di questo titolo quadriennale? Beh, intanto un'informazione che mi è appena arrivata: abbiamo appena toccato superato i 2 miliardi di controvalore sottoscritti anche nella giornata odierna, per cui sommati ai 5 miliardi e oltre dei primi due, ovviamente siamo più che convinti che nelle prime tre giornate faremo il nuovo record delle emissioni. Quindi abbiamo già intanto superato l'importo complessivo del primo collocamento, che lo ricordo ancora, era 7 miliardi. Però sì. È questione di, come dire, beh sì, in tre giorni voglio dire abbiamo toccato l'importo complessivo della prima operazione, quindi diamo in diretta anche alla dottoressa Granata, che l'avrà già saputa ovviamente prima di noi questa notizia. Quindi tutto il resto? Beh, tutto il resto è come è stato più volte spiegato, è un titolo di 4 anni di durata, indicizzato all'inflazione italiana, che ha delle caratteristiche da questo punto di vista innovative. Il Ministero del Tesoro ha lavorato in maniera molto attenta per definire e costruire questo nuovo prodotto dedicato principalmente per gli investitori retail, ma non solo, perché stiamo vedendo anche, come veniva già citato, anche l'interesse da parte di investitori istituzionali. Ovviamente è un titolo a 4 anni con un'indicazione all'inflazione italiana e ha due caratteristiche secondo me per l'investitore retail molto interessanti, che nei 4 giorni di sottoscrizioni, che sono a un prezzo fisso di 100, in questo caso abbiamo già stata definita la cedola annua minimo garantita, che è del 2,55, che alla fine dei 4 giorni verrà confermato o eventualmente incrementata. Due cose importanti, dicevo: il fatto che la sottoscrizione di questo titolo è assolutamente senza commissioni, per cui l'investitore privato può, persona fisica, non avrà alcun tipo di commissione per la sottoscrizione di questo titolo, e un'altra cosa totalmente innovativa è che qualora l'investitore detenga il titolo fino a scadenza dei 4 anni riceverà anche il cosiddetto premio fedeltà del 4 per 1000, per cui un ulteriore incentivo a mantenere questo titolo nel proprio portafoglio. Possiamo anche dire che andando a vedere anche l'andamento delle tue emissioni precedenti, hanno performato molto bene, è già stata pagata la prima cedola a settembre, quella della prima emissione, sì, quella di marzo. Assolutamente interessante, per cui direi che a posteriori si può dire che effettivamente l'operazione e i titoli per chi li ha sottoscritti è stata assolutamente un'operazione interessante. Infatti il rendimento di settembre era intorno al 5% appunto della prima cedola semestrale riconosciuta per la prima emissione. Eccoci ritrovati in diretta, oggi Salvadanaio parliamo del terzo collocamento del BTP Italia in corso proprio in questi giorni. Domani la possibilità per i piccoli risparmiatori, ma anche per i grandi naturalmente, di sottoscrivere questo prodotto termina, ma abbiamo già toccato un record di sottoscrizioni, ce lo annunciava poco fa Pietro Poletto di Borsa Italiana, siamo già sui 7 miliardi di euro e praticamente stiamo già quasi scavalcando tutto l'importo sottoscritto nella prima emissione, quella effettuata fra il 19 e il 22 marzo, quando il Tesoro raccolse 7 miliardi e 290 milioni di euro appunto su questo prodotto. Questa è la terza emissione, è andata molto diversamente invece quella di giugno, poi avremo modo di commentare anche le motivazioni per cui c'è questo orientamento così diverso da parte dei risparmiatori. Gianni Lupotto, consulente finanziario, buongiorno. Buongiorno. Due domande per lei da parte di due ascoltatori che poi ci danno l'opportunità appunto di fare anche, grazie attraverso il suo aiuto, un calcolo di o una valutazione di convenienza finanziaria intorno a questo investimento. Abbiamo intanto Marco dalla provincia di Milano, poi metto insieme anche Giampiero dalla provincia di Bari e così rispondiamo a tutti. Marco, buongiorno. No, dunque la mia domanda è questa: visto che c'è la possibilità di sottoscrivere questo BTP Italia direttamente dal proprio computer, volevo sapere praticamente come fare senza dover andare per esempio in banca o in altri posti, come operare. Questa è la mia domanda. Grazie Marco. Sento anche Giampiero dalla provincia di Bari. Buongiorno. La mia domanda invece è un attimo tantino diversa. Volevo chiederle qual era la simulazione che avevano eventualmente elaborato tra il tasso minimo garantito e più l'inflazione. L'inflazione, quindi quanto poteva arrivare il massimo rendimento di questo BTP. Di questa terza emissione. Grazie anche a lei, Giampiero. Allora, Lupotto, per i suoi clienti che le vengono a chiedere cosa posso fare per la sottoscrizione online invece di andare in banca, beh, intanto quasi tutte le banche hanno l'home banking, quindi Marco dovrebbe avere attivo un servizio di questo tipo, avere un dossier titoli, perché mi pare che quello sia il minimo sindacale per poter avere un titolo di Stato, no? Lupotto. Esattamente, quello che deve fare Marco è accertarsi che il suo rapporto bancario preveda la possibilità di operare online sul suo conto titoli. Una volta che questo è stato appurato, semplicemente collegandosi da casa, qualunque piattaforma di trading online consente di visualizzare, nella fattispecie, le informazioni relative a BTP Italia e poter sottoscrivere con un semplice click sul tasto acquista. Certo, poi chiaramente fino a domani si fanno le prenotazioni, il prelievo diretto sul conto corrente avverrà lunedì prossimo. Allora, Giampiero ci chiedeva appunto proprio quella cosa nella quale lei, Lupotto, quando la disturbiamo è specializzato, e cioè le simulazioni, no, su come possono essere calcolati i rendimenti dei prodotti di investimento. Ammettendo di aver investito nel BTP Italia 10.000 euro nell'emissione di marzo, 10.000 euro nell'emissione di giugno e potenzialmente 10.000 euro nella sottoscrizione attualmente in corso, ci spiega come possiamo calcolare? Sono prodotti evidentemente uguali, ma siccome sono agganciati all'inflazione che viene calcolata in momenti diversi, chiaramente anche il rendimento e le cedole semestrali saranno calcolate leggermente diversamente. Cosa dobbiamo prendere in considerazione per capirlo? Bisogna prendere in considerazione due cose: il prezzo d'acquisto e, per l'appunto, l'indicizzazione. Io comincerei, per cominciare da cose semplici, da oggi. Quindi chi sottoscrive oggi per 10.000 euro di BTP Italia questa emissione, diciamo, avrà un rendimento cedolare ogni sei mesi che è pari al rendimento minimo garantito, che per la verità non è ancora stato fissato. Sappiamo già che però al minimo sarà il 2,55, più l'inflazione presentatasi nel periodo di ciascuna cedola. Quindi, per fare un esempio, se l'inflazione rimanesse al tasso attuale, che è il 3,10, l'inflazione italiana, per sei mesi, avremmo che fra sei mesi il risparmiatore che ha sottoscritto 10.000 euro riceverà una cedola pari al 3,10 più 2,55, che è il minimo, fa 5,65, e questo numero va diviso per 2 perché si tratta di una cedola semestrale. E quindi avremo una cedola attorno ai 285 euro. La situazione è differente per quanto riguarda le emissioni precedenti, in quanto le emissioni precedenti, che hanno lo stesso meccanismo, avevano però un tasso minimo garantito differente, rispettivamente del 2,45 la prima e del 3,55 la seconda, quella emessa a giugno, e quindi, diciamo, più premiante. D'altra parte, questo maggior premio si traduce in un prezzo più alto, quindi chi ha sottoscritto la seconda emissione adesso ha in mano un titolo che da 100 iniziali vale circa 103,60. Lupotto, come mai è per queste ragioni che la sottoscrizione di giugno ha riscosso un consenso drasticamente diverso rispetto alla prima operazione di marzo e a quella attualmente in corso? C'erano di nuovo condizioni di mercato diverse, un po' più di turbolenza rispetto a quella che avevamo appunto a marzo, che era stata abbandonata, eravamo però lì anche reduci da un momento di fibrillazione molto alto. Come si spiega queste differenze di atteggiamento da parte degli investitori nei confronti di prodotti appunto che però sono simili, sono uguali? Si spiega con la avversione al rischio da parte di molti investitori. In realtà, quando ci fu la seconda emissione abbiamo appena visto che era la più generosa nei confronti dei risparmiatori, perché aveva una cedola minima garantita del 3,55, ma l'emissione capitò in un periodo di alta tensione sui tassi e sugli spread, e quindi molti risparmiatori, pur considerata l'appetibilità della sottoscrizione, decisero di rimandare. Dottoressa Cannata, posso far fare una considerazione anche a lei a questo proposito, no? La differenza di atteggiamento degli investitori rispetto alle tre diverse operazioni. Abbiamo avuto proprio una volatilità di umore molto molto accentuata tra marzo, giugno e ora. Sì, sicuramente sì. Sicuramente il contesto di mercato ha giocato un ruolo, ci sono però altri fattori che ci hanno aiutato a definire in un momento favorevole per quanto possibile. Infatti, notando le differenze tra la prima e la seconda emissione, ci siamo accorti che in occasione della prima emissione c'era molta liquidità disponibile perché c'erano state parecchie scadenze di titoli di Stato anche a medio-lungo termine, non solo botte, mentre invece a giugno non c'erano. E poi con tutta probabilità a giugno ha giocato negativamente anche la prossimità coi versamenti fiscali, che non c'era a marzo e non c'è nemmeno ora. E poi forse al di là del momento di mercato meno favorevole, in Italia, specialmente tra i retail, penso che abbia avuto un ruolo anche il terremoto in Emilia, che oltre ad aver colpito una regione abbastanza ricca, ha avuto delle caratteristiche per cui ha creato un clima di notevole insicurezza che si è protratto per oltre un mese. Le scosse erano forti e di sicuro non c'era, il contesto favorevole anche per chi abitava magari non proprio nelle regioni direttamente colpite, ma nei dintorni, ad essere un po' più prudenti nel lanciarsi in investimenti finanziari con timori magari per la propria casa. Certo, le condizioni emotive, d'altronde abbiamo visto quanto possono orientarci nelle scelte di investimento, ma non solo. C'è un'altra riflessione, dottoressa Cannata, che volevo fare con lei, perché me la sono ricordata. Racconto questo episodio ai nostri ascoltatori. Ho avuto modo di moderare un convegno con la dottoressa Cannata in maggio, c'è una manifestazione che si svolge a Rimini che si chiama IT Forum, e lì ancora non era stata predisposta, almeno non integralmente, la seconda operazione appunto di BTP Italia, c'era però già stata la prima, ma avevamo avuto modo di fare una riflessione, cioè il fatto che i sottoscrittori avessero ricercato questo prodotto anche appunto per l'aspetto positivo della protezione dal costo della vita. Eppure sul mercato obbligazionario ci sono anche altri prodotti che proteggono dai prezzi al consumo, quindi che proteggono proprio dall'inflazione, però non sono poi così ricercati dai piccoli risparmiatori italiani, o almeno non secondo quanto auspicherebbe magari il Tesoro. Secondo lei perché c'è questa differenza di atteggiamento? Perché questo BTP Italia piace così tanto e invece magari piacciono un po' meno prodotti che hanno magari scadenze diverse ma che hanno una natura simile? Ci sono secondo me due fattori. Da un lato il BTP Italia, ha l'indicizzazione esattamente ai prezzi al consumo italiani, quindi è un indicatore, un parametro più diretto. Gli altri titoli indicizzati all'inflazione sono indicizzati all'inflazione europea. E quindi c'è sicuramente questo aspetto che fa meno diretta la correlazione tra erosione del potere d'acquisto e quello che invece si riceve come in contraccambio nel titolo. Secondo, l'altro aspetto che secondo me è molto significativo è il fatto che il recupero dell'inflazione viene effettuato ogni 6 mesi, cioè in maniera immediata, e quindi risponde a obiettivi un po' diversi nelle scelte di investimento. Chi prende un titolo con struttura tradizionale, dove tutto l'accumulo di capitale dovuto al recupero dell'inflazione avviene a scadenza, fa un investimento di lungo termine, di più lungo termine, cioè rinuncia a qualcosa nel breve per avere di più al momento del rimborso. In questo caso invece si ha il recupero pressoché immediato della perdita di potere d'acquisto, ed è questo che anche spiega la cedola rotonda di cui si parlava prima, già pagata sul primo BTP Italia. Penso che in un momento un po' difficile come questo, questa caratteristica sia particolarmente apprezzata dai risparmiatori. In un momento in cui effettivamente non si arriva magari alla fine del mese, avere questa entrata, anche se piccola, modesta, straordinaria, certa, già quantificabile, è sicuramente un risultato importante per i risparmiatori italiani. Il BTP Italia è in corso il terzo collocamento, termina domani. Pietro Poletto di Borsa Italiana, ieri, anche se l'abbiamo con noi questa mattina, volevo ricordare una cosa che la dottoressa Maria Cannata, direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'Economia, ha detto ad altri media: gli ordini sono di piccolo taglio e sono superiori alla prima emissione, i compratori sono soprattutto italiani. Ordini di piccolo taglio, che cosa si intende con questo? Piccoli quanto? Proprio anche a dimostrazione del fatto che sono soprattutto i piccoli risparmiatori che ricercano questo strumento di investimento. Ma diciamo che la soglia per definire un ordine retail per noi è al di sotto dei 50.000 euro. Abbiamo visto ordini consistenti di size dai 2.000, 5.000, 10, 20, 30.000, però non sono mancati anche ordini, come dire, istituzionali, 30, 40, 20 milioni. È ovvio che l'investitore istituzionale si deciderà di intervenire, aspetterà domani l'ultimo momento, mm-hmm, proprio per vedere quale potrebbe essere l'eventuale cedola definitiva, in base un po' a quale possono essere simulazioni. Mm-hmm. Adesso sappiamo qual è la minima garantita del 2,55, potrebbe essere confermato 2,55, potrebbe anche essere alzata, per cui evidentemente un investitore professionale vorrà vedere anche quali sono le condizioni di mercato. Ovviamente. Angela dalla provincia di Monza e Brianza, poi torno a Gianni Lupotto con un'altra domanda. Angela, buongiorno. Buongiorno. Io ho sottoscritto presso la mia banca, non online, il primo BTP Italia. Sì. E la mia banca mi ha comunque addebitato 5,16 euro di spese. Mi hanno detto che queste non sono detraibili, cioè non me le potevano togliere. L'ha fatta l'operazione l'ha fatta durante il periodo di collocamento dal 19 al 22 marzo, perché magari lei potrebbe essere andata a sottoscrivere in un momento successivo, allora lì le commissioni evidentemente erano richieste dall'intermediario. Non lo so, sento. Noi l'abbiamo fatto appena stato annunciato, ecco. Mm-hmm. Poi vabbè, la loro conferma scritta me l'hanno data il 23 marzo. Mm-hmm. Allora Angela, sentiamo un po' Pietro Poletto. Le risulta che qualche intermediario abbia chiesto oneri di sottoscrizione ai clienti? Ma se sì, non sono dovuti, per cui onestamente chiederei alla banca di rifondere. Infatti, chiesto, ecco Angela, per cui anche poco però. All'interno dei 4 giorni di collocamento, evidentemente le spese di sottoscrizioni sono azzerate proprio da decreto del Ministero. Esattamente cui, come era successo nelle famose giornate del BTP Day o del Bot Day, per quella giornata, per la sottoscrizione dei titoli di Stato italiano, gli intermediari si erano impegnati a non ne chiedere nessuna commissione appunto di sottoscrizione. Non so, dottoressa Cannata, vuole intervenire anche lei su questo punto, se ha qualche considerazione da fare? Mi sente? La dottoressa Cannata non ce l'abbiamo in questo momento, adesso vediamo se riusciamo a recuperarla, non vorrei che ci avesse lasciato, ma magari aveva anche da fare. Comunque, ecco, ce l'abbiamo, dottoressa Cannata. Sì, sì, no, ci sono, sì. Scusate. Ha anche altro da fare. Ho messo il mute per non disturbare. Non si preoccupi. No, assolutamente, se sono commissioni di sottoscrizione non sono assolutamente dovute. E non solo perché non è come nel BTP Day o nel Bot Day, proprio perché il decreto di emissione stabilisce che non devono essere applicate, quindi questo assolutamente. Valuterei, potrei aggiungere, non so se magari questi costi che sono stati addebitati non possano essere relativi a bolli di comunicazione, prima di dire che non devono assolutamente essere applicati, verificare se magari sono bolli o altri tipi di spese che non siano commissioni. Dottoressa Cannata, potrebbero essere oneri di comunicazione magari messi insieme, qualche volta le banche lo fanno, mettono insieme tutta una serie di comunicazioni e poi ti addebitano un costo. Che cosa le tocca fare? Oltre a gestire 1.960 rotti miliardi di euro di debito pubblico, anche andare a verificare come si comportano gli intermediari con i sottoscrizioni, i sottoscrittori dei bot e BTP. Non ce la possiamo fare. Me l'immagino, vorrei ben vedere. Queste grane le lasciamo magari a Pietro Poletto. Un'ultima riflessione la vorrei fare con Gianni Lupotto, perché ci eravamo preparati con lui anche così un calcolo di convenienza tra la sottoscrizione di un BTP Italia e un BTP ordinario. Lupotto, che adesso, se andiamo sul decennale, abbiamo dei rendimenti un po' più tranquilli e rassicuranti rispetto a quelli che abbiamo visto nei mesi passati, insomma, ma un portafoglio ottimale per un risparmiatore piccolo, che è quello che potenzialmente ascolta Salvadanaio, come dovrebbe essere composto a suo avviso? Beh, intanto rispetto al decennale il BTP Italia ha il vantaggio di una scadenza ben più ravvicinata e quindi anche presenta meno fluttuazioni legate ai tassi di mercato. Inoltre in questo momento osserviamo che BTP ordinari, quindi non agganciati all'inflazione, di scadenza analoga, presentano un rendimento nettamente meno favorevole. Abbiamo fatto un calcolo confrontando il BTP in emissione adesso, il BTP Italia, col BTP 15 settembre 2016, che ha una cedola del 4,75 e che quota 105,47. Bene, il rendimento a scadenza di questa obbligazione, che ha una scadenza molto simile, è del 3,25, ma senza alcun aggancio all'inflazione, mentre invece il BTP Italia, come abbiamo detto, ha un rendimento di 2,55 più inflazione. Questo significa, in altri termini, che basta che l'inflazione in questi 4 anni sia superiore allo 0,70% annuo per rendere conveniente la sottoscrizione del BTP Italia rispetto all'acquisto sul mercato secondario del BTP ordinario. Dal momento che adesso l'inflazione è al 3,1, è ben difficile che nella media, nei 4 anni, questo avvenga, e quindi a mio giudizio la sottoscrizione del BTP Italia in questi 4 giorni è assai conveniente. Benissimo, io ho terminato la trasmissione, però gli ultimi 30 secondi la dottoressa Maria Cannata vorrei concederli per chiederle qual è il suo prossimo auspicio per il nostro debito pubblico. Tutto sommato, nonostante le tempeste a cui abbiamo assistito, le nostre aste sono sempre andate piuttosto bene, con i rendimenti che sono ritornati anche a scendere di nuovo. Dottoressa Cannata, da qui a Natale che cosa spera di vedere? Ah, da qui a Natale noi abbiamo le nostre aste regolari, spero che vadano bene come sono andate quasi sempre e ancor meglio come sono andate recentemente, e dopodiché, se devo fare un auspicio, che questo trend continui e quindi si stringa ancora lo spread. Tra l'altro volevo aggiungere, queste considerazioni di convenienza rispetto ad altri titoli di Stato sono anche legate al meccanismo di definizione della cedola minima garantita. Noi l'abbiamo fatto venerdì, in questi 2 giorni e mezzo il mercato è enormemente migliorato e quindi abbiamo congelato una situazione molto favorevole per l'acquirente di titoli di BTP Italia. Molto bene, grazie dottoressa Cannata, buon lavoro, ci risentiamo sicuramente presto. Grazie a Pietro Poletto, a Gianni Lupotto. Salvadanaio torna domani, ci sarà con voi Valentina Furlanetto. A tutti buona giornata.